Fujiko Factory, your musical playground. Sottofondo, Mamacita, potrebbero cacciarci dalla radio per questo brano, no, ma è un modo per far vedere che siamo i giovani, capito? Siamo è i giovani un modo della radio. Potente per farlo notare. Secondo me ci cacciano veramente. Ci cacciano, ma noi possiamo e parte questa nuova stagione con Mamacita in sottofondo di Fujiko Factory. Che bello, rega. Io non ci credo ancora. Siamo tornati, vi dico già che cioè tipo io e Samu ci siamo abbracciati con le mascherine perché non attenta ci vediamo da mesi. No, lo so. Con mascherine, io e Ile in realtà ci siamo un po' viste in questo periodo, però è bello finalmente tornare in diretta, tornare col nostro Fujiko Factory, ovviamente mascherine, tenendo le distanze, però è bello poter tornare in redazione a lavorare tutti insieme per una cosa comune che è il nostro Fujiko Factory. Che io quindi... da febbraio che non venivo qui dentro. Mamma mia. No, infatti è una sensazione un po' strana. E poi insomma è bello farlo con la canzone da discoteca classica, no? Cioè proprio è anche una presa di posizione in qualche modo. Molto forte. Molto forte. Noi vogliamo tornare a ballare. Oppure si può, tipo noi qua in studio stiamo comunque ballando, quindi anche voi da qualsiasi posto nel mondo ci state ascoltando, scriveteci al 333 180 94 94. Ma sapete che Giorgio ci ha scritto ciao Gio, perché appunto probabilmente ci stanno ascoltando anche gli altri redattori e speaker di questo Fujiko Factory, ma che se seguite tutta la puntata capirete un po' perché vi spieghiamo un po' cosa sarà questa stagione 2020-2021. E questa era DJ Lucrezia con Mamacita. Sulle mani ragazzi, sulle mani. Ma rega, ma sapete quanto io voglia fare nella vita la vocalist, quindi in realtà io passo da Radio Città Fujiko, ma poi mi sarò la nuova Franchino. Ci sta tutto. Con canzoni del genere. Con Mamacita ovviamente. If you're hot, baby, let me undress ya. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente. Ovviamente Fujiko Factory non sono solo Lucri, Ile, stavo dicendo Benny, vedi l'abitudine, Lucri, guarda. Ile e Samu, ma siamo in tantissimi. È vero, infatti non avremo l'occasione in realtà per parlare con tutti gli altri speaker, quindi rimanete insomma in ascolto perché li andremo a conoscere. O a riconoscere. O a riconoscere in effetti. La nostra squadra. La nostra squadra vincente, che quando una cosa vince non si cambia, e quindi voi continuate però a scriverci al 333 180 94 94. E intanto Mamacita ahimè è finita, sono molto triste, posso fatto ammetterlo. Anche una rima baciata, guarda che dovresti farla la vocalist. Comunque sapete che Mamacita a me ricorda, non so se anche voi fa questo effetto, cioè ci sono quei video dove che ne so c'è una lui o una lei che cantano una canzone che quindi c'è la base della canzone che va, poi intervengono questo lui o questa lei da casa con un video amatoriale e cominciano a cantare, ma lo cantano in un modo terribile. A me il ritornino di Mamacita ricorda questo, non so perché. Hai anche qui preso una posizione molto forte contro i Black Eyed Peas. Amo e adoro. Bisogna ammettere che in realtà Samu, quando gli ho detto dai, io voglio partire con la puntata con Mamacita, siete d'accordo? Eravate d'accordo, ammettetelo? D'accordo. Assolutamente sì. Perfetto, sì. Però giustamente Samu ha detto, però abbiamo un'immagine sensata dei Black Eyed Peas, quindi presentalo tu. Allora, è un pezzo del 2003, probabilmente il pezzo che ha portato dall'underground al mainstream i Black Eyed Peas. È una canzone un po' più seria di questo, diciamolo. Diciamolo, dai. Un pezzo che è stato scritto da loro e Justin Timberlake, io questa cosa non la sapevo. È una canzone d'amore, ma una canzone d'amore universale, perché è contro il razzismo, contro l'intolleranza, la guerra e l'inquinamento. E è un brano che, sì, insomma, ha scritto la storia dei Black Eyed Peas e si chiama Where is the Love. E insomma, io direi che non potevamo iniziare che con un brano migliore, visto che vi ricordiamo, ascoltatori e ascoltatrici, che questa radio, questo programma sono contro ogni tipo di discriminazione, razzismo, omofobia, transfobia e misoginia. Quindi io direi di ascoltarci Black Eyed Peas con Where is the Love. Trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on, I don't know. What's the truth, y'all? Come on, I don't know. What's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. The weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas, yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself, where is the love? One word, one word. We only got one word, one word. That's all we got. One word, one word. And something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the word, word, word. Yeah. We only got one word, one word. That's all we got. One Black Eyed Peas, Where is the Love? Molto where bello. Is, where is? Where is, where is? Where is? Sentite che base, rega? Mamma mia, ma oggi proprio siamo così. Vogliamo far con strafottenza, far capire che siamo giovani. E siamo tornati! Siamo tornati, che c'è carica. E che Lucri vuole fare la vocalist. La vocalist è importantissima. Un elemento fondamentale della puntata. Abbiamo il primo messaggio della nuova stagione di Fuggito. Oh, Patria. Attenzione! Ciao Lucri, TVB, vi ascolto, mi mancavate. Anche Ileana e Samu. Per stare sul tema giovani, esatto. TVB, vuol dire TVB, ti voglio bene. Bene, ok, perfetto. Bene. Ma in realtà TVB giusta. Può voler dire tante cose. Vabbè, non entriamo già così. Già questa puntata. La più tradizionale questa. Sì, poi... la più tradizionale, poi in realtà. Ma scriveteci al 333-180-94-94 cos'altro può voler dire, ma soprattutto. Ma soprattutto scriveteci. No, mi aspettavi che io capissi qualcos'altro. Sì, no, ma so. Soprattutto, vabbè, no, però mi è piaciuto questo sguardo di intesa. Che non l'ho colto subito, ma vabbè, non importa. No, ma soprattutto è settembre. Vedete. Cioè, io me ne sono accorta perché mi sono caduti tanti di quei capelli. In realtà è praticamente ottobre. Sì, ormai. In realtà è quasi finito. Ormai siamo alla fine. Vabbè, la quarantena, insomma, sono un po' confusa. Ma la quarantena è finita da un pezzo. C'è stata l'estate. Non so, io ho dormito in questo periodo. Allora, facciamo che dobbiamo un attimo far vedere un calendario a Ile, ma intanto settembre è ancora per poco, quindi per pochissimi giorni ancora possiamo mettere settembre questo gazzelle. Brano di Gazzelle. Che lui dice che è un mese di merda per ricominciare. Mi piace comunque come vogliamo tirare su di morale. Vabbè, in realtà esatto. Abbiamo messo musica da disco fino adesso, quindi ci sta. Settembre. Mare di un'estate che muore di una stella che cade. Così puoi desiderare, che poi è meglio di avere, che poi è meglio di fare. Settembre è un mese di merda per ricominciare, cominciare a tornare, cominciare a guardare. Mille sogni negli occhi, un paio di occhiali rotti, una canzone da fare. Così puoi sdrammatizzare, che poi è meglio di odiare, che poi è meglio di amare. Settembre è un mese di merda per ricominciare, ma è tutto più bello se lo vedi da qui. Sì, i miei occhi coi tuoi, molto meglio di un film. Una casa che hai sognato di entrare, perdonare tuo padre, rimandare gli impegni e rimanere a parlare. Così puoi dimenticare, che poi è meglio di dire, che poi è meglio di fare. Settembre è un mese perfetto per ricominciare, ma è tutto più bello se lo vedi da di un film, molto tutto più bello se lo vedi da qui. Sì, ed è finito il brano Settembre di Gazzelle. Questa base comunque è bellissima, cioè ogni volta che parte. Cioè proprio. Oh, raga. Un ritmo incalzante. Non sentivo assolutamente niente perché avevo lasciato il preascolto, ahimè, ma perché in tutto questo noi eravamo in. Stavamo facendo cose, una cosa molto importante, losche. Cose molto losche, che è quello che faremo durante questa puntata, che è appunto farvi riconoscere, conoscere, ripresentare e presentare gli altri speaker. Quindi non solo noi tre, ma nella famiglia di Fujiko Factory siamo in tanti. E mi sembra molto un'intervista, quindi in collegamento telefonico con noi abbiamo il primo ascoltatore, il primo concorrente di questa giornata. Allora ti fai sentire, chi sei Carlotta? Ci sei o chi sei? Chi sei? Chi sei Carlotta? Chi sei e ci sei, proprio doppia sfumatura di significato. Ci sono, grazie a tutti per avermi dato la parola. Ileana mi fa sempre morire come le tue imitazioni, veramente. Allora, sei una grandissima showgirl. Sono molto gelosa. Sì, ma tutti questi complimenti solo a Ile. Ma scusa, ma abbiamo una relazione particolare. Ok, scusate, no, perché magari inizio a parlare così anche io. Si vive a raccomandazioni qua. Lei sarà la mia raccomandante, ecco. È un po' Bruno Pizzul, Ileana Bruno Pizzul. Oddio. Molto molto bene. Allora, antico. Tu sei carica, tu torni in diretta domani. Sì, torno domani, ebbene sì, con Riccardo, Fujiko Factory di martedì. Ah. E staremo insieme 2 ore, dalle 15 alle 17. E avrete un'intervista. Sì, esatto, avremo un'intervista, ci sarà Deli con noi, che è stato uno dei finalisti al BMA Bologna Musica d'Autore, quindi parleremo un po' del suo ultimo singolo e della sua esperienza. Si parte BMA. Col botto proprio. Anche perché sì. Diciamo che questa stagione sarà veramente contraddistinta da tantissime interviste. Tantissime interviste. Sì, la prima settimana effettivamente ne abbiamo un po', ma ve le raccontiamo durante queste 2 ore. Si parte in quarta assolutamente. Quest'anno cerchiamo di rappresentare e far conoscere tutto ciò che succederà a Bologna, insomma anche nei dintorni, quindi state sintonizzati. Stay tuned, come dicono, come diciamo tuned. Noi giovani. Noi giovani, perché appunto ricordiamo è un programma di giovani. Di giovani. E non ho ancora ricordato il sito, perché io ricordo sempre il numero 333-180-9494, però anche il sito www.radiocittafujiko.it. E i nostri social, perché appunto siamo giovani. Siamo giovani. Soprattutto Instagram, lì. Twitter, Instagram, Facebook. Siamo dappertutto. E soprattutto tra poco, visto che raga io sono vestita molto bene, possiamo fare delle storie. Va bene, sì. Ma se vuoi ti facciamo proprio un servizio fotografico. No, guarda, non è va bene così, però facciamo delle storie così ci guardate anche in faccia e soprattutto sì. Fra pochissimo verrà anche pubblicato sempre sul nostro sito. Aspetta un attimo, voglio lanciare una cosa, però valutate l'outfit di Lucrezia. Grazie. Va bene, mettete tipo un mi piace, una di quelle cose da giovani. Da 1 a 10. 10, che domande? 10. Carlotta, grazie. Outfit of the day. Ovviamente, poi mettiamo tutti gli hashtag giusti. Ti aspettiamo qui domani e ti aspettiamo insomma in tutta la nostra stagione che è iniziata oggi. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Ciao, prestissimo. Ciao. E allora, intanto noi che famo? Un'altra canzone, non lo so, cosa mettiamo? Ma io direi di mettere, visto che è stato veramente un periodo di dissing questo, perché veramente è stato un periodo di dissing questa bella parola, sì, di botte e risposte. Ma sai che invece io mando tutti i programmi in fumo e faccio questa cosa? Che rivoluzionaria. Sono che rivoluzionaria. Che belle. Ma vuoi partire con... Così finiamo la mezz'ora tamarra e trash. Come si deve. E non ci cacciano dalla radio. Mi fa piacere che parliamo della mia grande amica Elette Lamborghini, che si è dimenticata di invitarmi al matrimonio, purtroppo. No. Allora, in realtà io sono stata invitata, ma avevo un impegno e quindi non sono declinato. Andata. Sì, no, ho declinato. No, io ero lì che attendevo invece e ho pianto. Non è arrivato niente. Tra l'altro, devo dire che una cosa meravigliosa che ho scoperto è che tra gli invitati, anzi, tra gli special guest, ma fra quelli con un ruolo più importante di tutti c'era Ezio Miccio. Enzo Miccio. Non lo so, ma lui in realtà è stato... Non è quello che ha allestito. Ma infatti allestito, esatto. Cioè lui ha fatto tutto il matrimonio. Esatto, ma meravigliosa questa cosa. C'è praticamente un crossover di real time. La ricanza e ma come ti vesti, è stupendo. Cioè. Passando per, non so, ha fatto anche molti altri programmi trash, esatto. In Spagna soprattutto, Cioè, sì. Pem, parla anche molto bene spagnolo. Tra l'altro lei si è sposata con Afrojack. E tra gli invitati c'era David Guetta. È vero che faceva il box, sì, che faceva il box. Ma infatti, ragazzi, scusate, che poi hanno chiamato lui, ma volevo andarci io, perché io non so ora se, insomma, sicuramente Afrojack è uno dei DJ più famosi al mondo, quindi probabilmente sono molto amici, David Guetta sarà andato gratis, ma io sarei andata ancora più gratis, capito? Avrei pagato io. Ho dovuto declinare, quindi insomma, al mio posto è andato David Guetta. Ma tra l'altro c'era anche Giusy Ferreri. Vabbè, perché hanno fatto un brano insieme. Estiva. Però adesso facciamo un momento trash, a me fa ridere perché anche al matrimonio di Fedez e della Ferragni c'era Giusy Ferreri che cantava. Ma lei si propone proprio per le hit estive, quindi quando può, caso vuole che anche magari quei personaggi con poi cui si sposano. Si sposano e lei è sempre lì che nei matrimoni trash lei c'è. Ma mi immagino poveretta che però magari lei voglia, non lo so, sposarsi oppure non voglia spendere per il regalo di nozze ed è costretta ogni volta ad andare a questi matrimoni. No, ma soprattutto la Ferreri non si può sposare, sennò poi chi canta il suo matrimonio? È un problema logistico. No, poi ha fatto pezzi anche con Baby K, quindi ora vedremo. Tre indizi fanno una prova, quindi se anche al matrimonio ipotetico di Baby K canta, sarebbe... è proprio... La tua tesi è confermata, Ile. Esatto, sì, sarebbe effettivamente. Ma però poveretta, mamma mia, ogni volta deve pagare un regalo diverso. Per gente, tra l'altro, esigente. Perché non penso che gli regali una cosina così, giusto per. E in tutto questo sta finendo Pem di Elettra Lamborghini. Non l'abbiamo fatta sentire tutta, però dai, un pezzettino si è sentita. Pem, a me comunque Elettra piace, posso dirlo. È simpatica, bolognese, rivendica sempre di essere qui. Io una volta l'ho vista in macchina con la sua, vabbè, si può dire, Lamborghini fucsia, che può essere solo sua, raga. Cioè io non l'ho vista in faccia, ma chi ha una Lamborghini fucsia? Solo lei. Sì, e quindi niente, è stato molto molto divertente. Ma io direi che ci ascoltiamo questo brano, che è Sfortuna, ed è appunto la nostra sfortuna di non essere state, perché noi vi portiamo su e poi vi abbassiamo un po' nel mood. È una montagna, dai, la vita non può essere sempre troppo allegra. Ci ascoltiamo Sfortuna e appunto poi andiamo velocissimamente in pubblicità e poi torniamo sempre sintonizzati fino alle 17. Yeah! Talento da vendere, vedo, e desiderio di mettersi alla prova. Ma dove ti colloco? Corso di doppiaggio. Corso di doppiaggio, eh? A Syncrodub fanno corsi di doppiaggio, recitazione, canto, dizione. Potresti diventare grande, sai? Sì, ti prego, corso di doppiaggio. Beh, se ne sei così sicuro, allora sarà meglio Syncrodub! Syncrodub è a Bologna. Sarà la tua scuola di doppiaggio, dizione, canto, recitazione. Cercala su internet e chissà, forse un giorno doppierai anche la mia voce. Partorisco senza dolore, l'anestesista canta oh, ave, ave, oh, ave, ave, oh. Ma è tuo il dominio della creazione, dammi una hit che faccia oh. Faccio la stronza ma mi vuoi bene, alla frontiera canteremo ave, ave, oh, tutti perdono il controllo. E allora, e abbiamo appena pubblicato storie su Instagram, infatti è per questo che noi ci perdiamo in ciance oggi. Questo perché siamo giovani, quindi a volte ci sta che ci perdiamo con questo dark web. E perché è la prima puntata. Ma sì, siamo un po' tutti in balota, poi sono arrivati due nuovi acquisti di Radio Città Fujiko, che sono i nostri tirocinanti, come ci aiuteranno. Come merce, tratta come merce. Ma noi siamo tirocinanti, dentro nell'anima, esatto, come fuori sempre. Sede, siamo sempre... Cioè, no, voi no, voi non siete fuori sede, no, con chi sto parlando? Io sono fuori sede e quindi in realtà si rimane sempre nell'animo fuori sede, anche quando ormai prendi la residenza, vivrai probabilmente tutta la vita a Bologna, ma l'animo da fuori sede rimane, e quindi lavorare in questa radio rimane comunque l'animo da tirocinante. È vero, anche perché lo siamo state tutte, quindi tutti e tutte, tutti, tutte con l'asterisco, tutte con l'asterisco. Ed è tutto molto bello, quindi abbiamo due nuove reclute che lavoreranno insieme a noi, e quindi soprattutto vi ricordo il nostro sito www.radiocittafujiko.it. loro sono Riccardo e Veronica. E allora continuiamo un attimo sull'onda, perché abbiamo appena presentato un brano di Margherita Vicario, non a caso, questa era Abawe, no, morte di un trap boy, e non a caso perché proprio in questi giorni si è scatenato il putiverio sul web a proposito di un dissing, ma oggi parleremo molto di questi dissing. Dissing, altro termine molto giovine. Perché dissing? Perché in realtà è successo che, insomma, Margherita Vicario ha commentato una la canzone, l'ultima canzone che è uscita di Emi Schilla, che è un featuring, insomma, con anche Salmo e, se non sbaglio, Fabri Fibra. Fabri Fibra, sì, sì. Fabri Fibra. Ma come lo dici bene? Fabri Fibra. Fabri Fibra. proprio Is. questa canzone, insomma, che sicuramente è stata definita innanzitutto da Margherita Vicario come anacronistica e misogina, perché effettivamente diciamo che il testo non è proprio dei più dolci, carini e contatto verso sicuramente la figura femminile, perché ci sono frasi del tipo, ma non so, la possiamo leggere, siamo leggila, così scurrili, leggila. Ma sì, dai. Beh, se uno la può cantare, noi la possiamo dire. Hai ragione anche te, hai ragione. Beh, dice, ma a fine serata fra gliel'avrò dato a due fighe, supero il limite finché c'ho il vuoto nell'iride, il mood è schivare le V, per oggi mi sento molto rap. No, ma infatti voi non vedete, ve lo dico io, faccio il gesto con la mano. E vabbè, insomma, diciamo che più o meno è questo il significato, gliel'ho dato, gliel'ho messo e tutte queste cose qua. Vuoi dire altro, Samu? Non ho letto due righe, però andatevela, se proprio dovete, andatevela a vedere tutto, il testo è piuttosto peso e quindi ovviamente è stato criticato, giustamente mi viene da dire, da Margherita Vicario. E Margherita Vicario ha avuto poi anche in realtà il sostegno di tanti altri artisti, fra questi anche Murubutu, che ha lanciato un hashtag, io sto con Margherita. E quindi in realtà lanciamo anche noi l'hashtag, anche noi, anche Radio Città Fujiko sta con Margherita, ma soprattutto stiamo sempre dalla parte delle canzoni non misogine e non soprattutto anacronistiche o e dai sessiste, su si dai. Può scrivere di tante cose, è bello, ma in realtà non è che non si può parlare di sesso, parlare di sesso, si può parlare di tante cose, ma come diciamo sempre, le parole e il linguaggio è importante, quindi ma soprattutto il modo in cui lo si fa, che soprattutto artisti che sono ascoltati dai giovanissimi, perché comunque insomma non è un buon insegnamento. Poi io l'album in realtà non l'ho ascoltato. Neanch'io, dietro questo album dire. 17 che insomma, c'era grande, ci sono grandi aspettative. Io me lo ascolterò e poi deciderò, certo, cosa ne, certo, penso. Però, quindi non facciamo di tutta l'erba un fascio. No, però, insomma, Amy Schilla è un po' famoso per queste uscite molto maschiliste, misogine. Quindi, insomma, avendo appunto un ruolo di un certo tipo, soprattutto verso i giovani, magari se si sta più attenti a quello che si dice, poi uno, insomma, cioè, può pensarla anche come vuole, però anche perché ovviamente la musica non è che debba educare assolutamente, però certo bisogna, insomma, lasciare dei messaggi che ovviamente non siano, non devono essere per forza rose e fiori, però dirli, questo è effettivamente un testo che, non lo so, mi aspettavo di trovare magari qualche anno fa, è un po' banalotto, ecco, mi viene da dire, ma sì, comunque abbastanza. Sì, più che altro perché poi, insomma, sembra che poi il rap sia solo questa cosa, esatto, qua, esatto, in realtà non lo è, no, assolutamente. Ma infatti la canzone, appunto, che abbiamo appena sentito di Margherita Vicario, Abawe, morte di un trap boy, in realtà parla proprio di questo, si rifà a un caso anche di cronaca dove un ragazzino che aveva, insomma, fatto un qualche azione criminale aveva risposto al perché, alla ragione per la quale aveva compiuto quel gesto, perché l'aveva un po' sentito in una canzone trap, nella musica, quindi insomma, ovviamente quando si è molto piccoli certe cose possono traviare, possono essere trasportati e poi, insomma, intesi in un'altra maniera, è ovvio che influenza, ovviamente. Sì, sì, sì. Ma quindi andiamo oltre questi Oltre, e in realtà io adesso vi metto una canzone che non c'entra assolutamente niente con questo discorso, è un po' il nostro contenitore musicale, è bello che poi siamo in tre influenze musicali diverse, ma secondo me su questa canzone io vi vedo danzare tutti, perché questo è Franco Battiato con Voglio Vederti Danzare. Danzate tutti. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. Thank you. E questo era Franco Battiato, Voglio vederti danzare. Noi abbiamo danzato, spero che lo abbiate fatto anche voi da casa, ma nel mentre in redazione succedono tante cose, tra cui il direttore che entra e dice: ma non avete letto il mio messaggio al 333 180 94 94? Colpa mia. Colpa di Samu che non sta sul pezzo. Il tablet oggi è destinato a te, quindi scriveteci. Ma ora così sono entrato sul pezzo e vi dico che il messaggio che ci ha mandato il direttore è una foto, quindi non saprei bene come raccontacela. Diciamo, è un animale. Esatto, c'è questo cinghialone molto, insomma, possente. Potevamo fare tipo 5 parole, indovinate l'animale, vai. Un cinghialone possente che dice: ha ragione Margherita Vicario, provate a dire il contrario. Provate a dire il contrario. Noi non ci mettiamo contro il cinghiale. Vi ricordo che in realtà il nostro direttore, ma anche Mauro di Mauro ed Erika del Festival Backpack, hanno questa pagina sui cinghiali. Facciamogli un pro di promo, magari è molto promo divertente. Questa passione, insomma. Questa passione per i cinghiali, sia per mangiarli in realtà che per... Ma magari abbiamo in ascolto dei vegani, non diciamo che si mangiano i cinghiali. No, ma non i cinghiali veri, cioè i cinghiali... I cinghiali finti, di plastica. Finti, no, neanche di plastica, perché magari qualcuno ha eco. I pupazzi, quelli biodegradabili. Vegana che sei all'ascolto, buono studio. Ma intanto in ascolto abbiamo anche un'altra persona, visto che oggi facciamo tutta questa cosa molto dinamica e molto divertente. Stiamo finalmente imparando ad usare questo mezzo telefonico, quindi si passa dai cinghiali ai lupi. Questo strano strumento telefonico. Telefonico. Noi giovani, va. Siamo passati dalle cabine telefoniche ad avere in collegamento direttamente dal Veneto. Chi c'è? Chi c'è dal Veneto? Dall'Alto Veneto. No, io ho aperto il microfono, non so se stavo già parlando, scusami. No. Era censurato. Eccomi qua. Eccolo. Ciao Massimo, comunque, grazie di avermi finalmente invitato Ufficio Reclami. Io scusa, da anni. No, mi sa che hai sbagliato. Sì, no, non è... Cioè, è anche un po' una mancanza di rispetto, cioè... Onestamente, sì, siamo qui noi. Siamo qui oggi riuniti. Abbiamo chiamato il numero giusto? Allora, io penso che abbiamo chiamato il Giovanni Betz giusto, però secondo me è lui che era sintonizzato sbagliato. Esatto. No, ma infatti oggi ho sentito che hai la voce un po' più alta, o un po' più bassa del solito. Una voce divisa in tre voci. Esatto, siamo un Massimo Vitali per tre. Sì. Una sinfonia di voci, sì. No, io avevo fatto anche la lista per lamentarmi di qualcosa, ma ho capito che il programma è questo, scusatemi, è iniziato Fujiko Factory 28 settembre, parte il palinsesto. Tu quando ritornerai in quel di Bologna ti aspettiamo qua in studio e pensi di essere Ufficio Reclami. Secondo me tu sei avanti, perché Ufficio Reclami torna da domani, il martedì alle 14. Ecco, quindi in realtà hai proprio toppato orario. Ok, adesso metto anche nella lista che se ti vuoi lamentare ancora invitare. Se comunque ti vuoi lamentare, noi non so, facciamo prendi accogliamo comunque. Vai, lamentati un po'. Rubiamo il lavoro ad altri speaker, cioè così che si fa alla fine, comunque un branco di lupi qua, quindi. Guardate, io ho una lista, quindi ve la leggo così mi tolgo un po' fuori. Ma è una lista con i punti? Cioè l'hai fatta proprio bene? Sì. Certo. Ci sono le freccine, l'evidenziatore l'hai utilizzato? No, perché è sulle note del telefono. Okay. Perché hai fatto l'elenco è almeno? È un elenco quindi più tecnologico, perché siamo giovani. Brava, perfetto. Vedi che siamo giovani, mi piace questo vostro hashtag di oggi. Ah, e se posso... mi è piaciuto molto come avete iniziato con Mamma Sita. Hai visto? Perché l'anno scorso ho iniziato con Oh Wake Me Up Before You Go Go, mi pare. Vero, Gio, molto vero. Sì. Quindi avete alzato l'asticella, bravi, devo dire. Chissà l'anno prossimo con cosa inizieremo la stagione di Fujiko con Baccelli, con Boccelli. vai con la lista, Gio. Siamo curiosi, allora, curiosissimi. Mi lamento che non sono ancora a Bologna e che quindi non sono lì con voi. Prima cosa, grazie comunque di avermi chiamato, perché mi sento con voi. Oh. Poi dei denti del giudizio, qui parlo per molti perché mi hanno tolto finalmente questi ultimi denti del giudizio e devo dire che poca delicatezza, ecco. Okay. Hashtag poca delicatezza. Lamenti del dentista, quindi. Quindi stai togliendo un dente. Sì, è stato bravissimo, però poca delicatezza. Ho capito. Poi, insomma, penso di essere il paladino di molti del freddo, che è arrivato, io non ce la faccio più. Ti devo dire che, tu sei probabilmente in un posto ancora più freddo con la neve, però anche qui è arrivato veramente il freddo. Io ho dormito col piumone stanotte. In un posto più freddo con la neve, dove ti collochi? No, lui. Ma cavolo, dico, cioè, mamma mia. C'è già la neve in Veneto? Siete proprio la sì, cosa la sera. Io sì, ha nevicato. Ma probabilmente non è mai andata via la neve da dove arriva lui. Ma no, può essere. Un ghiacciaio perenne, un ghiacciaio perenne. Incredibile, però sì, ecco, qui ho finito la mia lista. Vabbè, dai, io pensavo. Mi ero già messa comoda, pensavo ti lamentassi per la fino alle 17, ci è andata bene. No, possiamo dire che però ti sei tolto un dente con questo. In tutti i sensi. Quattro. Ce l'avevo lì da quando l'hai detto. Sì. Io direi che ci meritiamo tre sì, anzi tre quattro sì. Per me sì. Benissimo. Molto bene, ci portiamo a casa quattro sì e noi abbiamo detto, non so, che questo Fujiko Factory, anche quando tornerà Joe, sarà un anno pieno di interviste, ma le interviste abbiamo già iniziato a farle e una di quelle è stata domenica al Tutto Molto Bello ai Tre Allegri Ragazzi Morti. Questa intervista andrà in onda prestissimo, voi dovete però rimanere sintonizzati e sintonizzate per ascoltarla. Io mi sono un po' influenzata, ma sono guarita, giuro, per intervistarli, perché domenica ha diluviato a Bologna, non so se voi eravate a Bologna, ma è venuta giù una gran pioggia. E loro hanno fatto uscire questo brano che si chiama Quando, un brano uscito durante la quarantena, e in realtà è un brano che era stato già scritto, poi hanno deciso di pubblicarlo durante la quarantena, quindi è stato un po' modificato. Quindi il bello nell'ascoltare questo brano è perché ci si può immedesimare in quei mesi tempestosi che abbiamo vissuto tutti, e noi abbiamo vissuto in quattro modi diversi. Intanto Gio, noi ti aspettiamo qua prestissimo, ti richiameremo quando vuoi. Quando, ragazzi, quando, capite il gioco di parole, quando, perché sennò, cioè, quando è diventato una cosa alta questo programma, altissima. E quindi direi di lasciare un po' di spazio alla musica con Quando dei Tre Allegri Ragazzi Morti. E ciao Gio. Ciao ragazzi, ciao, a presto. Grazie, ciao ciao, presto. E in sottofondo in questa canzone di quando cos'è? Un motorino? Non so. Cos'è questo? Sì, ci piacciono questi effetti un po'. Sono effetti speciali Radio Città Fucito 2.0. Sono giovani anche loro. Sono giovani anche loro, anche se in realtà i tre allegri ragazzi morti non sono più così giovani, ma sono giovanissimi. Io li ho conosciuti domenica al Tutto Molto Bello ed è stato tutto molto bello. E ogni anno faccio questa battuta sul Tutto Molto Bello, perdonatemi. Ma abbiamo, mi inserisco, abbiamo un nuovo messaggio. Sì. Dalla nostra ex collega Valeria che ci dice: grandissimi ragazzi e ragazze, buon inizio di stagione. Dai è tutta, anche a te, dai. Ti aspettiamo quando ripassi per Bologna, ti aspettiamo qui in via Zanardi 369, ma come chiunque ci voglia venire a trovare noi vi aspettiamo, ma con la mascherina, ma vi aspettiamo. Attenzione, mi inserisco di nuovo perché è arrivato un messaggio adesso che ci dice: ciao, sono Filippo, vi mando un saluto da Rimini. Oh, ciao Fili, un saluto a te, che cosa carina. Tanti saluti perché appunto è una puntata piena di saluti, perché ritorniamo ufficialmente sui 103.1. da oggi ci dovete sopportare per tutta la stagione, ma non solo noi, infatti tra pochissimo mi sento un po' c'è posta per te oggi, però riconosciamo un po' apriamo la busta, apriremo un'altra busta, questa volta dal Veneto ci sposteremo in Toscana e chiameremo Benny. Mi manca tanto Benny, ci facciamo un po' tutto lo stivale dai. Assolutamente, perché appunto siamo un po' ancora sparsi per l'Italia, ma piano piano torneranno tutti, come tornerà anche Chiara dalle Marche, quindi effettivamente ci muoviamo un po' per l'Italia. È un po' una promozione anche per le regioni. Esatto. Per le regioni, sì, insomma, è bello essere uniti, restiamo uniti, come diceva Gianni Morandi. Stiamo uniti, ragazzi. Sai imitare Gianni? Ragazzi, stiamo uniti, ragazzi. Stiamo uniti, molto molto bene. Quindi oddio, stiamo uniti, quindi a distanza, come abbiamo un po' fatto anche durante la quarantena, perché Fujiko Factory è resistito anche alla quarantena. Cavolo, sì, noi facevamo i nostri podcastini alla fine. Podcastini, no? Mi piace. Mezz'orine, le mezz'orette così da casa, ce le preparavamo e poi le mandavamo. Quindi sì, in realtà siamo stati molto produttivi, molto bravi. Sul pezzo. E sul pezzo mandiamo però anche la pubblicità, che in realtà non l'ho preparata. Vabbè, adesso che mandiamo la pubblicità mentre Lucrezia la prepara, noi possiamo dirvi che cosa ascolteremo dopo, perché dopo chiameremo Benny. Sì. E parleremo anche un po' di cose gossipare alla fine, no? Beh sì, perché appunto è stata un'estate molto movimentata e soprattutto noi oggi e il mercoledì ci sono sempre i contributi di Mauro ed Erika, che se siete all'ascolto ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ma soprattutto si sono sposati e qua ci vorrebbe un po' tipo ok, e Radio Città Fujiko c'è stata, allora hanno fatto, era presente, noi eravamo in rappresentanza di tutto il cast di Radio Città Fujiko e ovviamente da buoni amanti di festival non potevano che far suonare gente, ma vi raccontiamo tutto tra pochissimo, pubblicità e torniamo. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know. Children will play. One man, one way. Ciao, siamo Lendri. Ecco, questa era One Day Matti. Oddio, io non so pronunciare i nomi. No, neanch'io. Io non li so pronunciare. Queste diciamo parole. Solo che è One Day ed è quella di Matti Shaw. Vabbè, comunque è una bellissima canzone, avete sentito, no? Pubblicata nel 2008, ma questa canzone, diciamolo, è un inno che vuole esprimere e trasmettere una speranza per la fine della violenza ed è di fatto una preghiera per una nuova era di pace e comprensione. Direi che soprattutto in questo periodo, che in quest'estate ne hanno dette di ogni, è successo di ogni, un po' di comprensione e di pace ne abbiamo bisogno tutti. Che assolutamente dite? Ma allora, abbiamo un po' anticipato in realtà del fatto che verranno fuori un po' di gossip anche, perché alla fine noi siamo una radio di gossipare. Abbiamo tirato prima fuori il tema Elettra Lamborghini, e adesso vi tiriamo fuori il fatto che avremo un audio importante, no? Importantissimo. Allora, e chissà cosa succede in quest'audio, sono molto curioso. Allora, sono Yendrigo, noi adesso vi facciamo ascoltare, li abbiamo conosciuti appunto al matrimonio di Mauro ed Erika, sono una band straordinaria, sono questo trio di Brescia che speriamo che presto saranno qui in studio con noi, per noi, per voi e vabbè, per tutti, per tutti insomma. E niente, ci hanno fatto questo audio, ci hanno consigliato di trasmettere un brano che quindi trasmetteremo, perché insomma siamo state minacciate, no, non è vero, e poi vi raccontiamo un po' cosa è successo esattamente al matrimonio e chiameremo anche Benny. Quindi è già uscita un'indiscrezione. Sì, c'è un'indiscrezione. Vai. Ciao, siamo Lendrigo e con questo tono molto confidenziale e accomodante volevamo solo dirvi di ascoltare Radio Fujiko. Mandiamo un bacione alle nostre amiche e ora le obblighiamo a mandare un nostro pezzo, spero uno bello. Anni Verdi è bello, però non sentitevi obbligati. Ciao ciao. E invece ci siamo un po' sentite obbligate. Noi ovviamente non ci sentiremo obbligate a mandare questo pezzo, però è un pezzo molto bello, quindi secondo me ci sta tutto ascoltarlo. Che ce dici? Ce lo ascoltiamo e poi rientriamo con la nostra amica Benny, che anche lei insomma ci racconterà qualche aneddoto, qualche chicca. Beh, anzi, l'ascoltiamo dopo, che ne dici? Esatto. L'ascoltiamo dopo. Intanto ci ascoltiamo un'altra artista che sarà presto ai nostri microfoni, che è Emilio, che verrà intervistata da noi settimana prossima. Si chiama Bagno Paradiso e ci riporta un po' all'estate, anche non so, di Rimini, Cattolica, insomma, tutti questi un po' posti. Di Romagna, un po' di Romagna. Un po' di Romagna, Sciabia, un po' di Romagna, un po' di Riviera ai nostri microfoni. Questo è Emilio con Bagno Paradiso. Mi viene voglia di baciarti fino allo sfinimento. Potremmo dormire insieme dentro gli impianti balneari. Adesso che sogno spesso il mare, in questi giorni che ci penso al mare, vorrei sopravvivere, vorrei. Allora andiamo a cercare. un giorno per caso, poi mi hai scritto ed è stato bellissimo. Adesso baciami per tutta la notte, per tutta la notte. Allora andiamo a Serbia. E questa era Miglio con Bagno Paradiso e siamo un po' tornate a Cervia, Cesenatico, ma anche un po' a Rimini, la Romagna appunto, come la abbiamo Romagna, detto. Sì. Tutto per tutto. Ma sì, ed è bello perché in realtà fino a qualche giorno fa ero al mare, ma adesso è arrivato un freddo assurdo, però l'ultimo spiraglio di mare me lo sono preso, sicuramente anche Miglio con Bagno Paradiso. Questa canzone ci accompagnerà anche nel grigiore dell'autunno. Sì, dai, è stato un modo per salutare l'estate, insomma, dai. Esatto, no? Ci ha riportato un po' indietro, esatto, di qualche giorno. Insomma. Ma sì, di qualche, è vero, di qualche settimana. Va. Sì, un po' più di qualche giorno, in effetti. Ma rifacendo un passo indietro, non era un blef, noi vi facciamo davvero ascoltare una canzone degli Endrigo. Ci hanno salutato con questo fantastico audio. Tra pochissimo, anche in collegamento telefonico con Benny, vi raccontiamo del matrimonio, della balotta che abbiamo fatto. Ma intanto noi ci ascoltiamo Anni Verdi, che appunto è stato pubblicato il 5 giugno e racconta gli anni in cui feste, sesso, notti in viaggio e albe sono il fuoco sacro dei protagonisti. Insomma, è l'età in cui ci si sente come dei ragazzini in vacanza mentre intorno tutti diventano adulti. Gli Endrigo descrivono così l'atmosfera di questo brano che stiamo per ascoltare e insomma io direi che ce lo ascoltiamo perché secondo me è più rappresentativo che raccontandovelo. Che dici, Ile, lo ascoltiamo? E sia. Esplodere non erano gigantesche o storiche, il traffico a Roma, un tirannosauro, la cura per il cancro, al massimo una questione di un attimo. Soffio blu, una scintilla e poi tu eri una casa in fiamme. Tu chiamami e ritornerò. Tornerà, E allora questa era Anni Verdi degli Endrigo. Che è ripartita, perché gli Endrigo vogliono tornare a essere con noi. Ci vogliono rubare la scena. Si impongono, si impongono. D'altro canto siamo state pseudo minacciate, quindi. Ed è anche appena caduta la linea, perché eravamo in chiamata con Benny. Samu, io ti chiedo soccorso nel richiamare Benny. Richiameremo Benny. Nel mentre possiamo ascoltarci una canzone dei Beatles. Perché questo? Perché c'è stato attorno tutto una novità, una grande novità in tutto ciò, perché proprio recentemente Paul McCartney ha dichiarato di aver in serbo per noi grandi fan dei Beatles, Just Fun, che è una canzone nuova, inedita in realtà, che non è ancora mai stata ascoltata, perché appunto era un pezzo che era stato realizzato da Paul e John quando erano giovincelli. Ha deciso il buon Paul, insomma, che nonostante l'età ha ancora lo spirito del businessman, è ancora molto attivo, insomma, in lui. E quindi l'hanno ritirato fuori questo vecchio pezzo, e i fan sono ovviamente in delirio. Il pezzo però uscirà il 9 ottobre, proprio in onore, in occasione del compleanno di John Lennon, che è appunto il 9 ottobre, sarebbe stato il 9 ottobre, che avrebbe compiuto 80 anni se non sbaglio. Fra l'altro uscirà anche un film dedicato proprio all'artista. Ma adesso ci possiamo ascoltare una canzone invece dei Beatles, che è un po' emblematica forse del loro legame forte, dell'amicizia che li legava, perché insomma, e poi tante sono in realtà le chicche attorno al rapporto fra John e Paul. Dicevano che appunto avessero una sorta di relazione, li shippavano, sai, comunque i fan sono tutti così, cioè nel senso che attribuiscono sempre ovviamente ship e cose varie. Ma allora adesso potremmo ascoltarci, perché no, Two of Us, che dici? Ma io direi che ce l'ascoltiamo, super fan anche io dei Beatles, e quindi ecco qua. Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats. Ok, aspetta. Two of us riding nowhere, spending someone's hard-earned pay. Ok, ti senti? Yeah. Perfetto, sentiamo. Non so se non partita la chiamata, però strano. Però adesso che abbiamo messo una canzone dei Beatles, e quindi qua. Ok, bene. Diciamo, ritorniamo sugli Endrigo, ma siamo e raccontiamo veloce in realtà, perché siamo un po' in chiusura più o meno. Dovremmo anche poi chiamare Erika. Aiuto, ok, va bene. Quindi super breve. E niente, che poi torni presto. Allora, prima volta nella vita. Esatto, qualcuno se nel mentre tu scriverà Erika che può essere chiamata, ci abbiamo 30 minuti grande, come stai, mi manchi? Non ne faccio più. Oh, mamma mia. Come stai? You and I have memories longer than the road that stretches out ahead. Two of us wearing raincoats, standing so low in the sun. You and me chasing. We're going home. You better believe it. E questi sono i Beatles con Two of Us, bellissima canzone, e insomma siamo contenti finalmente di sentire un po' i Beatles, anche perché c'è stato tutto quel polverone attorno, insomma, ai biglietti non rimborsabili, ma che adesso sono finalmente rimborsabili, per chi non lo sapesse. E quindi insomma è bellissima, i Beatles, tanta roba. Beh, di Radio Città Fucico anche per il sociale, per ricordarvi di richiedere i rimborsi per i biglietti. Certo, ricordate. Ma in tutto questo forse l'avete già un pochino sentito, colpa mia, ma eravamo molto felici di avere Ben in collegamento telefonico, quindi abbiamo un po' fatto succede balotta. Anche questo, succede dai. Anche questo, è il bello della diretta. Sono le 16:22, ancora pochissimi minuti insieme a noi, perché dopo di noi il disco della settimana. Ciao Benny. Sono Benedetta e sono molto felice di riavere presto, tipo circa fra 18 mesi, i miei soldi di Paul McCartney. Non li riavrò. Lo siamo tutti, infatti io ho detto cavolo, fra un mese, ma va bene. Ma l'importante è riaverli, è un investimento. Sì, in realtà fa tipo da salvadanaio. Ma cioè, riavendoli tra un po' è un salvadanaio. Ma sì, io avrei preferito vedere il concerto, devo essere onesta. Vabbè, sì. Anch'io, mi sa tutti qui dentro. Però dai, vabbè. Insomma. Purtroppo è andata così. Vabbè, qualche concerto l'abbiamo visto quest'anno, molti meno di quelli che pensavamo, alcuni anche in posti non consueti, però è vero. Tra cui, perché in realtà siamo addirittura d'arrivo, però dovevamo raccontarlo. Siamo stati al matrimonio di Mauro ed Erika, che tra un pochissimo sono sintonizzati sui 103.1. Abbiamo conosciuto gli Endrigo, hanno suonato gli Endrigo, bravissimi, andate ad ascoltarli. Abbiamo appena ascoltato il loro brano. Perché hanno suonato? Perché era un festival il matrimonio. Esatto, cioè, era il loro festival backpack. Ha fatto festival backpack. Un festival personalizzato, stupendo. In versione matrimonio. Noi c'eravamo e poi insomma abbiamo iniziato a far balotta con gli Endrigo, siamo finiti a casa loro ed è stato molto bello, perché non è l'inizio di un film horror, ma poteva sembrare. E neanche porno, neanche possiamo porno. Dirlo. Neanche porno alla fine. No, abbiamo iniziato a fare karaoke con una chitarra scordata e senza amplificatore. Abbiamo fatto praticamente un'intervista senza volerlo e quindi speriamo di averli presso i nostri microfoni. Ma soprattutto in maniera ufficiale. Esatto. Esatto. Soprattutto abbiamo scoperto che in quella casa lì era pieno di bambole strane, da veramente film horror. Molto inquietanti, devo dire. C'era qualcosa anche del film horror. Le bambole horror, erano allora. Le bambole. Era pieno di crocifissi e bambole, quindi due domande me le farei. Ma comunque tutto forte, dai, tutto forte. Era atmosfera un po' noir, un po' decadente proprio per. Ma io direi che era un'atmosfera un po' ribelle, quindi farei ascoltare sui 103.1 Rebellion. L'ho detto bene? Nice. Yes. Yeah. Ciao Benny, ti ciao aspettiamo Benny. Qui presto. Ciao Benny, ciao. Rebellion. Ciao. We'll be right back. era Rebellion, siamo sempre sui 103.1 Radio Città Fujiko, Fujiko Factory, prima puntata, però vi stiamo anche raccontando quante cose succedono durante il Fujiko Factory, tra cui quello che andrà in onda fra pochissimo, ma ce lo facciamo raccontare da Erika. Già, infatti tra pochissimo, io sono Erika di Erika e Mauro di Festivals Backpack, che mi avete detto, avete citato per tutta la puntata. Esattamente, sono loro e lei che si sono sposati, quindi facciamo le congratulazioni innanzitutto anche in FM. Bravi, bravi. Evviva. La prima cosa che abbiamo fatto al rientro del viaggio di nozze è stato registrare il disco della settimana. Bravissimi, siete sul pezzo. Disco della settimana che andrà in onda tra pochissimo, però prima c'è la pubblicità. Erika, a me dispiace doverti tagliare, ma siamo in ritardissimo, però siamo partiti a bomba con questa prima puntata. Fujiko Factory torna domani e quindi ora noi ci ascoltiamo piccolissima pubblicità, ma non la sentirete neanche. Poi c'è il disco della settimana e noi torniamo domani. Ciao Erika. Ciao. In realtà la sentite fra pochissimo. Torna fra poco. E appunto noi ci risentiamo prestissimo. Ciao. Ciao, ciao a tutti. E io ogni volta che sento questa sigla qua, disco della settimana, sono un po' contento perché so che arriva qualcosa di bello. Sono contenta anch'io, anche perché sono passati un po' di mesi ed è un po' di tempo che i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici non sentono della musica che proponiamo noi, cioè magari sono anche contenti, però in realtà noi abbiamo deciso anche questa stagione di intrometterci nelle loro radio per presentare ogni settimana qualche nuova proposta. Di solito è appunto il disco della settimana, però visto che negli ultimi mesi ci sono arrivati anche tantissimi singoli, io ti farei questa proposta, Mauro. Disco della settimana lo farei come un po' singoli della settimana per immetterci in questa nuova stagione. Questa nuova stagione che, tra l'altro, come mi dici tu, ci vedrà protagonisti di nuovo del palinsesto di Fujiko Factory. Ecco, io volevo fare un passo un pochino indietro e dire chi siamo noi. Uno dice, ma chi sono questi due qua che parlano e scassano tanto il beep? Ecco, noi siamo Mauro e Erika e, come vi diceva appunto Erika, ci sentirete tutti i lunedì e i mercoledì pomeriggio alle 4:30 incastrati dentro la programmazione di Fujiko Factory. Mauro, stavo notando che anche quest'anno però la tua R non sarà dei nostri, eh? Ci ho lavorato tutta estate, lavorato tutta estate, ma non è migliorata. Non è migliorata per niente. Assolutamente. Vabbè, niente, allora ci perdoneranno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ma facciamo che tanto non è questo quello di cui dobbiamo parlare, ma si parla di musica. Allora, come dicevamo prima, di solito il disco della settimana noi ve lo proponiamo il lunedì, perché così avete una settimana per scoprirlo, se volete. Però, appunto, sono arrivati tanti nuovi spunti e io inizierei con un singolo che viene estratto da un album d'esordio che è uscito proprio a settembre 2020. L'album che si chiamerà, ecco, devo dirlo proprio io, siamo sicuri, si chiamerà L'era della rabbia. Della rabbia, L'era della rabbia con due B. Lo dico io, si chiamerà L'era della rabbia. Ecco, e uscirà all'inizio del 2021, ma è stato anticipato appunto a settembre 2020, quindi pochissimo tempo fa, da un singolo che si chiama chiama L'Enigmista. L'Enigmista è un singolo uscito il 18 settembre appunto 2020 ed è un brano che ha un tema un po' particolare. Infatti questo brano racconta un po' il rapporto di dipendenza che c'è con i social network. Non è una, diciamo, un argomento che non è mai stato toccato, però comunque lo fa in una maniera interessante, perché ci dice: questo rapporto con i social network ci sta rendendo sempre più logorroici e frustrati, privi di empatia e armati solo della nostra opinione e del nostro punto di vista. Ecco, insomma, è appunto qualcosa di non inedito, ma secondo me è un buono spunto per ragionare, ecco. La band in questo brano si propone un po' di raccontare come la rabbia di cui ci carichiamo quotidianamente, anche per colpa e soprattutto per colpa di social network, fake news, post continui, ci fa sembrare più simili agli zombie cannibali dei film e alle terribili raffigurazioni dantesche delle incisioni medievali. Di chi è questo brano? Chi sono coloro che ci raccontano questa storia? Allora, questa band in realtà si definisce più che altro un collettivo musicale nato dalla collaborazione tra tantissimi musicisti, ad esempio dal cantautore Marco De Vincentis con due I, e anche Americo Roma, polistrumentisti e anche musicisti orchestrali. Insomma, ci sono tantissime persone che hanno preso parte appunto alla creazione di questo collettivo. Ecco, sì, quindi collettivo è probabilmente la parola giusta, perché c'è veramente un mix di persone. Ma a suonare effettivamente dentro questo brano sono Marco De Vincentis alla voce, Pier Giorgio Tiberi alla chitarra, Adamo Fratarcangeli piano, violino, ukulele e chitarra, Paolo Notarsanti al basso e Federico Garofali alla batteria e al programming. Allora, prima di lasciarvi allora all'ascolto di questo brano, vi diciamo che sia come si descrivono loro e sia come abbiamo visto noi, ci sono tracce sia di canzoni e di cantanti italiani come ad esempio Dalla, Gaetano, De Gregori, Gazzè, ma anche internazionali. E infatti ci sono appunto delle tracce di Mumford & Sons, Lumineers, insomma diciamo che hanno trovato un buon connubio proponendo un pop forse un po' indie. Ecco, questo è quello che volevamo dirvi del brano. A questo punto ve lo lasciamo ascoltare. Vi lasciamo all'Enigmista dei Della Rabbia, primo nuovo singolo che vi proponiamo noi in questa nuova stagione di Fujiko Factory. Pensiero che ti fa incazzare quando ti viene, che scade il sangue e ti fa tremare, che ti scivola rapido nelle vene. Vorrei essere un pensiero sconcio che ti gira in testa e ti fa vergognare, un segreto rosso che non racconti alla tua morale, che è un punto fermo, un vento che solleva i peli e gli occhi dallo schermo e ti torce il collo come ai girasoli. Sembra banale come un pensiero superficiale che neanche è vero. Miliardi di commenti nella testa, sembra di essere rinchiusi nella stanza dell'enigmista. Milioni di opinioni e non ti basta, sembra di essere caduti in un girone dell'inferno o forse in Silent Hill. Quel silenzio fermo prima di una tempesta, l'idea molesta che non racconti, che bussa forte nella tua testa. Vorrei stonare a squarciagola fuori dal coro della tua protesta. Vorrei essere l'anima della festa come una vecchia che ti spia dalla finestra. Miliardi di commenti nella testa, sembra di essere rinchiusi nella stanza dell'enigmista. Milioni di opinioni e non ti basta, sembra di essere caduti in un girone dell'inferno o forse in Silent Hill. Vorrei essere le tue dita con cui martelli tutti quei tasti, strapparti le unghie in un colpo deciso e lasciare la frase in sospeso. Miliardi di commenti nella testa, sembra di essere rinchiusi nella stanza dell'enigmista. Ecco, a questo punto io cambierei un pochino registro, diciamo, no? Mi è venuto in mente una band che abbiamo ascoltato, e tu me lo ricordavi, al Balla coi Cinghiali, un festival che era stato molto molto bello e che quest'anno purtroppo non abbiamo potuto raccontare perché, insomma, è stata un'estate un po' particolare ed è stata un'estate un po', guarda, non direi da buttare via, però un'estate un po'... Diversa, esatto. E dove non abbiamo avuto modo di vedere dei festival, ma abbiamo avuto modo di ascoltare comunque, appunto, tanti nuovi brani. E io ti proporrei questo. Allora, sì, nel 2019, come ricordavi tu, abbiamo sentito al Balla coi Cinghiali I miei migliori complimenti. E sono bravo, bravissimo, che bel profilo destro. No, non è questo. I miei migliori complimenti sono una band. Musica fatta col MacBook che parla d'amore e di frutta. Questo è scritto nella loro bio. Ecco, infatti è molto particolare come musica, però è interessante. E il titolo del singolo che vogliamo proporvi è I Just Wasted Another Summer. Buttato via un'altra estate, via. Ecco, infatti per quello ti dicevo, non è proprio da buttare via st'estate. Però questo pezzo, come dicono loro, è un pugno nello stomaco, l'urlo soffocato di una fine, il lato emozionale dei miei migliori complimenti che viene appunto buttato in questo brano, che è un brano abbastanza forte di impatto in un qualche modo al primo ascolto. Cosa viene raccontato in questo singolo? Vengono raccontati ricordi agrodolci, sentimenti contrastanti, sono felice, non sono felice, non lo so, mi sono preso male, chissà, atmosfere un po' cupe, insomma, diciamo che in un qualche modo a me vengono in mente le mie anni emo. Non so se hai avuto anche tu il periodo emo. Ma devo ammettere di essere stato al concerto dei My Chemical Romance anni fa, Ecco, quindi insomma diciamo che tira fuori un po' questo lato un po' cupo, appunto, possiamo definirlo così, con diciamo la penna autorale, viene definita così, di Walter. Ecco, Walter, che è appunto la mente dei miei migliori complimenti, dice: ho sprecato un'altra estate, ho dormito sul ponte di una nave per terra, mi sono innamorato della ragazza più dolce dei navigli, ho bevuto vino bianco e mangiato scampi, sono anche andato a ballare una sera, poi hanno richiuso le discoteche, mi ero divertito, ho speso 274,58 euro di Ecoltra, che non so cos'è. Bentornati a Milano. Vabbè, insomma, oltre a questo progetto solista, dicevamo, Walter in questo periodo è stato autore di diversi brani. Appunto, la sua penna, che dicevamo prima, è molto particolare, molto originale, ha scritto anche brani per Gali e per J-Ax, quindi insomma diciamo è un autore che viene anche ricercato da altri artisti. A questo punto direi che possiamo farvi ascoltare questo brano, dicendovi che è scritto appunto da Walter Ferrari, viene prodotto da Walter, Uccello e Eshla, è mixato da Filippo Slaviero e masterizzato da Tommy Bianchi, così sappiamo un pochino chi ci ha messo mano in un qualche modo. Quindi vi facciamo ascoltare I Just Wasted Another Summer, I miei migliori complimenti. Settembre, se ancora negli occhi il mare e non ti riesco più a guardare. Voglio tirare le tende, poi tirarti i capelli, poi tirare conclusioni affrettate. Ti sei girata di spalle da quella chiromante, hai pescato la luna nera, nera, nera. E io mi sa che ho sprecato un'altra estate. Fa paura se penso di stare su una roccia riscaldata da una palla di fuoco. Ti immaginate abbronzata mentre mangi gli scampi in uno dei sette mari. Ti sei girata di spalle, sei bella anche di spalle. Hai pescato la fortuna, hai pescato la fortuna, hai pescato la... Io mi sa che ho sprecato un'altra estate. Ma come ho potuto fare? Volevo imparare a cambiare. Me. continuiamo allora ad ascoltare questi singoli che fanno parte del gruppo di singoli della settimana, richiamiamola così per questa settimana, la nostra rubrica disco della settimana, e io continuerei con un brano che è, secondo me è perfetto per questo periodo, perché è uscito anche questo a settembre, è proprio questo periodo che fa un po' da cavallo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, uno un po' nostalgico, si guarda indietro, è malinconico e in più piove, cioè nel senso peggio di così non può andare, e invece no. Allora, questo brano invece io quando l'ho ascoltato mi ha ricordato l'estate in un qualche modo, però un'estate anche un po' vintage. Tu cosa ne dici? Ma sì, un'estate un po' vintage, un po' malinconica, con questi suoni che sono un po' caratterizzati dal cantautorato italiano, no? Un po' anche del sud Italia, mi viene da dire. E tra l'altro questo brano ci è presentato da Diego Rivera, che nient'altro è che il nuovo progetto solista di Carmine Tundo della Municipal, che avevamo già presentato, ne abbiamo parlato appunto nella scorsa stagione della Municipal presentando un loro disco. Ecco, appunto ha deciso diciamo il componente della Municipal di creare questo nuovo progetto parallelo, e esordisce con Santa Maria al Bagno, che è il nome di questo brano. Che brano è? È un brano che effettivamente, lo dice anche lui, fa un po' da ponte tra passato e presente, perché sono un po' contenute vecchie storie che riemergono dai cassetti e viaggiano tra sonorità latine e vecchia scuola del cantautorato italiano. Ecco, quindi non era così sbagliato dire che guardava un po' indietro, ecco. È un po' la metafora di sentimenti contrastanti, un po' l'amore e odio per una donna, che non è diverso dall'amore e odio per la propria terra, ed è uno sguardo romantico, ma anche nostalgico, sulle coste selvagge del Salento. Beh, insomma, appunto questo brano è di Carmine Tundo, che è un artista che comunque è sempre alla ricerca di nuovi stimoli, e proprio per questo già lo ha dimostrato con la band La Municipal, che in 3 dischi è riuscita a farsi notare, diciamo, e poi decide di evolvere in un qualche modo con la sua musica e creare questo progetto parallelo. Da questo mix di Puglia, Sud America, cantautorato e musica anche molto contemporanea, moderna, perché poi viene un po' anche dall'indie La Municipal, vi lasciamo a Santa Maria al Bagno, che è questo nuovo brano, un nuovo progetto di Diego Rivera, che null'altro è che Carmine Tundo. Sei bella come Santa Maria, quando arriva ottobre ed i turisti vanno via. Sei stronza come Santa Maria, quando non trovo parcheggio e ce ne andiamo via. Via da questo litorale che profuma di frittura, che quando arrivi alle conchiglie a volte sa di spazzatura, e ci perdiamo tra le onde, tra le promesse della gente, guardando su all'orizzonte pescare ricci illegalmente. Sei bella come Santa Maria, quando corriamo in pieno inverno e non c'è mai la polizia. Sei dolce come Santa Maria, quando ai piedi della croce sognavamo di andar via. Via da questo litorale che arriva fino a Finisterre, dove finisce il mondo, così credeva il mio bisnonno. E ci perdiamo tra le onde e tra gli sguardi della gente, tra gli schiamazzi dei turisti stregati dalle tarantelle. E poi mi sento meno solo quando ti guardo da lontano, capisco che nel caos moderno c'è un filo rosso in quest'inferno che ci stringe di nascosto e che ci lega a questo lembo di deserto. sedato sopra il tacco, sversato dal solito vento. Senti che vento. Sei bella come Santa Maria. Quando arriva ottobre ed i turisti vanno via. E passiamo allora a presentarvi il quarto nonché ultimo singolo di questo singoli della settimana che vi presentiamo oggi, prima puntata di Fujiko Factory in questa nuova stagione. Allora, questo brano è un po' giusto per chiudere questa rubrica, perché ha un titolo che secondo me è molto dolce, Ti porterò con me, dice, ed è dei Santa Maria, scritto però con l'Y, i Santa Maria, credo che sia Santa Maria. Santa Maria. Ed è un brano che è un po' pop, ma anche con qualche tocco di rock. A me ha ricordato, quando l'abbiamo ascoltato, un po' un Dente d'altri tempi, in un qualche modo. Beh sì, insomma, si sentono batteria, basso e chitarra che sono un po' un omaggio musicale agli anni Ottanta, e danno un tappeto sonoro, che è una parola bellissima, tra l'altro, su cui camminare e per articolare un invito. Quindi, dopo la paura, la distanza e il dubbio, riappropriamoci di questo presente insieme ai Santa Maria. Ti porterò con me. Ok, e riappropriamoci ballando ognuno a distanza di sicurezza con le mascherine, perché comunque deve essere un pochino così la situazione, no? Comunque, giustamente lo dico, ma dopo questo periodo così pesante facciamo qualcosa un po' adatto a ballare, a alleggerirci, a dimenticare un po' quello che è successo. Ti porterò con me è un brano che è stato registrato e mixato da Giovanni Strioni, e con questo brano, tra l'altro, i Santa Maria si aggiudicano il May Superstage 2020, il May Superstage 2020. Meglio effettivamente che 2020, lo usano sulle radio mainstreaming, ma a noi non ci piace molto. 2020, dicevo, questo brano lo potrete tutti quanti ascoltare insieme a noi dal vivo sabato 3 ottobre a Faenza, dove ci sarà il May, appunto. E quindi, prima di lasciarvi a Ti porterò con me, che appunto è l'ultimo brano dei Santa Maria, come si pronuncerà, vi diciamo qualcosa di loro. Questa band è originaria della Tuscia Viterbese, quindi sono laziali, sono italiani, ecco. E come dicevamo prima, parlano di cose contemporanee, quindi anche questo brano appunto parla un pochino del lasciare andare quello che è successo nell'ultimo periodo, ma lo fa con delle sonorità che non sono per forza contemporanee. Infatti si rifanno molto alla musica degli anni 80, come abbiamo detto, ma anche degli anni 70. Ecco, nelle loro canzoni ci sono riferimenti internazionali che vengono un po' da tutto il mondo, dal pop d'avanguardia alla poesia urbana, ma anche elementi un po' più rurali e vintage. Così, perché mi fai leggere a me rurali? Potevo evitare di dirlo, forse. Perché è divertente. E riguardo questo brano Ti porterò con me, dicono: Ti porterò con me è una delle prime canzoni che abbiamo scritto. Parla di un incontro dopo un lungo inverno di distanza. Parla di lontananza e parla di rinascita. Potrebbe essere una storia ambientata in questo strano e difficile periodo storico, però con un sound che si ispira agli anni 80 e alla New Wave. Bene, allora ci direte anche voi se questo brano vi piace. E con questa canzone chiudiamo la rubrica di questa settimana e vi lasciamo a mercoledì per l'intervista che vi proporremo, e poi vi ricordiamo invece che tutti i pomeriggi Fujiko Factory è qua per farvi compagnia. Adesso questa è Ti porterò con me dei Santa Maria e buona continuazione. Terrai la mano, balleremo un po', poi vedremo un film di un regista matto, tu ti addormenterai tra le mie braccia, quando ti sveglierai, sarà stato un sogno, quando ricorderai. Vecchi. Mm-hmm. con me. Dopo un lungo inverno il gelo scioglierà, rinasceranno i fiori dentro i tuoi occhi grandi o dentro i tuoi pensieri. E io ti parlerò di quando bevo tanto, quando ti sveglierai. Sarà stato un sogno, quando ricorderai. Saremo già vecchi. Tra la veglia. Lascio scorrere.